il sabato del villaggio. La sigla è solo per dire che c'è il momento solo di cambiarsi d'abito, perché è l'ora di dare la linea al nostro RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La mia ora preferita del sabato pomeriggio, anche se ormai con l'ora solare non è più pomeriggio, è sera. Viene da dire buonasera. Hai fatto il cambio d'abito, sei elegantissima oggi, eh? Iniziamo con un complimento. Ma no, grazie, fanno sempre bene. Però, io ormai non lo faccio più il cambio degli armadi, no, dai. Ma come? Io sì, assolutamente, io li divido. Ma è un momento magico nella vita. Ma dai, ordinatone. Oh, sì, assolutamente. Poi tu elimini i vestiti? Io sì. Poco. No, è poco. Una forma di ordine mentale. Secondo me c'è anche qualcosa di psicanalitico sotto. Vanno eliminati, li porto nella cosa della Caritas, quelli gialli, che ce n'ho uno sotto casa. Uno o due cose al cambio di stagione, sì. Qualcosa sì, però devo dire che siccome io compro i vestiti con molte aspettative emotive, perché io quando compro un vestito me lo immagino di viverci la dentro vita del vestito. Certo. Ah, bellissimo, ne parleremo, sai, di cose legate ai vestiti. Sì, parliamo anche un po' di moda, finalmente, però, un po' di cose frivole. No, beh, intanto dobbiamo dare i nostri account, certo. Marta Cagnola, Di Bellasio, hashtag RadioTube, cancelletto, però se volete twittare anche del sabato del villaggio, cancelletto, non lo dicevo da un po', vabbè, ISDV. Allora, dobbiamo parlare di un personaggio che da un po' di tempo ne combina di ogni. Ma lui è straordinario perché il piemontesissimo, formalissimo, educatissimo, Massimo Giletti ogni tanto gli parte la brocca, si può ma dire. Viva Dio, a me piace quando Giletti gli parte proprio. Poi piace, come uomo. Sì, ma io l'ho conosciuto, un bell'uomo, molto affascinante. L'ho visto anche una volta in aereo. Sei molto simpatico anche Massimo Giletti. E domenica scorsa all'Arena, a un certo punto lui stava parlando di amministrazione comunale, stava parlando di Napoli. Stava parlando di Roma, aveva ospiti dei consiglieri comunali, Antonio Crocetta, Carlo Iannello, in collegamento con Napoli c'era l'assessore al patrimonio Sandro Fucito, spero che si pronunci così l'accento dell'assessore napoletano. E che ha detto Giletti? La tocco piano, hashtag la tocca piano, e mostriamo alla radio quello che ha detto, soprattutto come Massimo Giletti si è messo a parlare di Napoli. Dobbiamo parlare degli investimenti che non si fanno al sud, però lei non ne può parlare. Allora, voi non fate questo tipo di interventi perché la RAI non li può fare, perché la RAI non vuole parlare del meridione. Senta, questo non glielo permetto, perché la RAI ha gente che fa un lavoro straordinario, non solo io, e voi iniziate a far andare avanti la vostra città, fatela mettere a posto, che è indecorosa in alcuni punti, abbandonata, e se lei esce dalla centrale della stazione trova solo immondizia in tutti i vicoli, e i cittadini onesti di Napoli stanno ancora aspettando che qualcosa si pulisca. Lei non dia regola alla RAI, perché la RAI ha fatto un grande lavoro andando anche a raccontare e fiction i problemi della camorra. Quindi mi spiace, questo non lo posso permettere. Mi spiace. Problemi minimalisti. Mi spiace. La centrale della stazione, sì. La stazione centrale. Ma poi a un certo punto dice che fanno un lavoro straordinario, non solo io. Vabbè, sì, peraltro, però dire che la RAI non parla di quelle cose mentre era la RAI era io devo dire che non riesco. Non ha detto delle cose così gravi. Anche perché poi, come dicevi tu, parlava di Napoli, ma ha sempre parlato male di Roma. Ma non parlato male in maniera, però ha sempre frasi, cioè anche aggettivi. Insomma, non si può mai criticare niente, minacciato di querela e tutto, però c'è qualcuno anche che dal sindaco. Certo, si è molto arrabbiato. Il nostro Giuseppe Harry Cruciani alla pure Zanzara l'ha chiamato, si sono fatti una bella chiacchierata, io mi sono divertita molto. Però e poi Harry De Luca che querela su questo argomento. Però dice che non è incoerenza, dice che non si sente incoerente. Io ho in questo periodo ho dei problemi col concetto di libertà di parola, perché non riesco più a capire. Ce la vorresti abolire? No, no, vorrei capire quando ne parlano per capire quando c'è coerenza e quando no, ma è un argomento troppo ampio. Se dici le idee che a me stanno simpatiche te la lascio, se no te la tolgo. No? Ah, questo è un così po'... funziona. Beh, evidentemente sì, perché se è arrivato a dire se è ridenuta, comunque ha usato le parole abbastanza normali. Massimo Giletti però ha deciso di fare un po' pace, cioè ha cercato di far capire, al di là del momento dello sbrocco totale, di far capire quello che secondo me comunque si capiva, pensa sinceramente, che non ce l'ha con Napoli, se mai gli vuole con bene. Napoli. A un certo punto è stato chiamato da una radio che si chiama Radio.0, loro sono stati molto bravi, l'hanno intervistato e l'intervista è finita così. Massimo, sai che sei il conduttore, il giornalista più amato dalle donne napoletane? Giuro. Spero di mantenerla questa carica. Una canzone napoletana che ti piace? Beh, è un sole mio di Matteo. Ah, allora aspetta, che c'ho il maestro della morte qui accanto a me, nato il 2 novembre, guarda, è un caso, che vuole dedicarti questa canzone. Vai. O la vuoi cantare tu un pezzettino, Massimo? Vai, vai, Massimo. Cantiamola insieme, dai. Malato sole. Canta lui. Più bella che è. Sola mia, vai un pezzo e un pezzo tu. Sta in fronte a te. Vai insieme. Oh, sola. C'è anche questo vibratino un po'. Un sì, po' non ho capito po chi era Giletti. Comunque Giletti veramente c'ha cioè, ogni tanto. Lo fa, ultimamente... fa anche il finale? Sentiamo? Ce lo fa, lo fa. DJ. Aspetta, però c'ha un po' di esitazione perché. Esitazione. Vai Massimo, aspettiamo te. A te. Però l'ha fatto. Per me è sì. Per me è sì. Ma sai che parleremo anche di X-Factor? Poi è andato in Iraq. Certo. Poi aveva litigato con Capanna. Cioè, tosto. Questi conduttori di talk in questo periodo sono un po' tonici. Sono anch'io. Sui. Adesso io mi arrabbio. Sì. Dico, la Cagnola non mi dà la parola. Siamo in ritardo. Sì, siamo in ritardo. Tipo chi? A chi potrei ispirarmi anche un po' per la stempiatura? Perché effettivamente sì, non siete tricologicamente avvantaggiatissimi. Oh, piano, né tu né che lui. Querelo, vedi, la libertà di parola. Fino, la libertà di anche parola fino ai capelli. Non diciamo. È vero, siamo alla radio. E quindi posso dire rimasto, che Daniele sì. Bellasio ha sì, tantissimi capelli. Però mostriamo il fatto, sempre alla radio, che un conduttore si è arrabbiato con una sette. Collega sì. Però non conducono insieme. No, non credo che in futuro lo non faranno. Non credo. Lei conduce una trasmissione prima di lui. Sì, e si prende quello spazio di si azione. Si allarga un filino, evidentemente, allarga. La signora Lilli Gruber. Come direbbe Alessio Viola, è una trasmissione che a un certo punto inizia. Va in onda, ecco. Solo che Gianluigi Paragone non è così sportivo. No, l'ha presa... Anche lui così. L'ha toccata piano, ecco, quindi sentiamo. Mostriamo alla radio come ha esordito la con la gabbia Gianluigi Paragone. E ringrazio Nello Trocchia per questo servizio e ringrazio anche Lilli Gruber che è stata puntuale nel ritardo anche questo mercoledì. Magari la prossima volta che va al Bilderberg gli facciamo regalare anche un orologio. Il, no, Bilderberg. Ma pure per questo, ma pure per il ritardo. Io ti aspettavo al varco sul Bilderberg. Però vorrei dirti che la prima volta che abbiamo litigato io e te sì. Abbiamo litigato sul Bilderberg. Non me lo ricordo, ma la volta quella là che dello smartphone. Quella volta che ti ho tirato lo smart... No, quella volta che ti ho tirato un telefonino addosso senza prendere. Era per un ritardo però. Era per un ritardo. Sì, vabbè. Quella volta che ti ho cercato di colpire ma... Cercavo di rendere migliore la trasmissione mandandoti da sola in onda. Sì, però sei stato fortunato perché ho una pessima mira, quindi no, ho preso. No, ma poi non voleva, mamma non voleva prendere me, andiamo no, lo volevo prendere, io, lo volevo prendere, non sì, importa. Poi era uno smartphone che tu volevi abbandonare sì, da tempo, è vero, con i vestiti. È vero, volevo cambiarlo. Ci sarà un po' di traffico sì, giro, dai, c'è un po' di traffico. Non c'è più Expo. E poi sì. Parliamo, finalmente, lo facciamo molto sì. Poco, parliamo di moda, perché sì, è un argomento frivolo, delicato, no, simpatico, ma è importante. È importante, ci ritroviamo tra pochissimo. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. Radio Tube. Eccoci insieme dopo il traffico del villaggio, il traffico di RadioTube, visto che questa è la terza ora della diretta del sabato pomeriggio di Radio 24, per parlare, lo abbiamo detto, di moda. Moda e social network. Sì, moda e social network. Perché i social network, sai che non se la passano tanto bene in questo periodo, eh? cioè Twitter in una crisi anche economica, poi, finanziaria. Poi che Twitter adesso ha tolto la stellina, ha messo il cuoricino. Vabbè, questo è gravissimo, che è una cosa, sì, poi già, magari commenteremo anche questa cosa, che istituiremo un movimento politico per il ripristino delle stelline. Però io ho fatto mio un tweet molto carino, che sì, diceva: se non vi piace il fatto che Twitter abbia messo il cuoricino invece della stellina, immaginatevi che i cuoricini immaginatevi i cuoricini come che siano un'altra cosa. Ma no, culetti rovesciati, ma... carino, dai, culetto rovesciato. Vabbè, è carino, un altro carino. Social network molto un po' discusso, sì, per voltare pagina è anche l'Instagram, come lo chiama Elio a X Factor. L'ha già chiuso il suo, sì, perché questa è la settimana del Facebook, perché Elio, giudice di X Factor, ogni settimana ne prova uno, quindi Instagram, sì, adesso l'ha già abbandonato. L'ha già abbandonato, però è perché è entrato in... spiegalo tu, perché sei... Allora, questa settimana ferrata, una ragazza ha, sì, fatto grandissima sensazione, 19 anni, molto molto molto carina, si chiama Essena O'Neill ed è, pare, australiana, famosissima, credo sia australiana, cioè, per, non è famosa per la è sua... È incerta la provenienza della signora Essena. Devo aver letto da qualche parte, okay, ma non ricordo bene. Non è fondamentale, non è un dato fondamentale. Quella. Anche tu che pignolo che sei... No, mi hai abituato bene. È una bionda, è bionda, che carina, diventata molto molto molto famosa per le sue bellissime foto sul profilo Instagram, ma a un certo punto la signorina Essena O'Neill ha detto basta, chiudo il mio Instagram, e l'ha fatto l'Instagram con un video molto molto molto sobrio. Two days ago when I released this site I was really scared. I was scared that, you know, no one wants to hear the truth, that everyone's gonna think I'm an attention seeker, that I'm... Piange per 17 minuti e 40 secondi. Ma è la cosa più finta del mondo. Io non l'avevo ancora visto, lo sto vedendo alla radio, ma è tutto costruito. Lei piange per 17 minuti e 40 secondi e sì, dice che insomma queste foto che lei faceva non erano reali. Io facevo 50 scatti per arrivare a quello perfetto, e poi quello che voi credete il mio account spontaneo delle mie foto della vita di tutti i giorni, non è vero, era il mio business e venivo pagata fino a 1300 euro a posto. Si ora sapeva. Detto tramite, io non piangerei, sì, io subito, se qualcuno uno vuole mandarmi scarpe o robe del genere, non so. Però cosa guarda posso che fare, lei sport, tipo in bikini, cos'è? Ecco, allora eviterei sui costumi, non sono preparato. Però il concetto è che lei faceva delle foto un po' fintarelle dove citava delle marche, immagino. Esatto, lì apriti cielo, si sono un po' tutti, lo sapevamo, si sono tanti, si sono lei era seguitissima. Sì, seguitissima, aveva più di 600.000 followers su Instagram, però ancora dei suoi amici hanno detto che pare australiani, no, deve essere australiana davvero, perché l'ho scritto da qualche parte che era australiana. Le hanno dato della bugiarda perché le hanno detto che invece tutto questo era una finta, perché poi lei, certo, comunque ha aperto un nuovo sito che si chiama Let's Be Game Changers, cioè cambiamo le regole gioco, dove cambiamo le foto il gioco. Sono finte altrettanto, ma questo Instagram, il tema è questo Instagram, l'Instagram, ma questo Instagram aiuta la moda, fa male alla moda, è vero, è finto. Allora io vorrei parlarne con una super fanta mega esperta di moda. Sì, e quando dici moda e quando dici sole 24 ore dici ah, che bella presentazione. Allora vediamo, io la provo a chiamare, chissà se c'è. Paola Bottelli, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ma cosa fate i verginelli, visto che parliamo di Australia, pura lana vergine, e facciamo i verginelli oh, mentre parliamo di vedi che Paola la pensa come me. Vai, vabbè, Marta, magari, ma magari. Ragazzi, dai, no, ma no, è tutto finto su Instagram. Instagram è la rappresentazione e la celebrazione del bello. Deve essere tutto bello, preciso, perfetto. La foto del fiore, la foto del mio gatto, la foto che non ho, la foto del tramonto, la foto della copertina del libro che mi sono appena comprata. Poi quelli tutto... dei libri che poi in realtà non li hanno mica letti, mettono le foto. Certo, deve essere tutto bello e a tutti piace soltanto guardare l'immagine, non gliene frega niente di quello che uno scrive. Ieri ho detto a una collega del Sole 24 Ore, mi sono accorta che ho messo una foto sull'Instagram e ho fatto l'errore in inglese, perché a volte sto sui social senza occhiali purtroppo, e quindi scrivo delle stupidate, così metto degli errori, entra il correttore automatico, non me ne accorgo. E lei ha detto, ma io non l'avevo letto, avevo guardato solo la foto. La foto era bellissima, c'era dei fiori magnifici. Quindi c'è gente che prospera, guadagna milioni di euro all'anno nella moda. Ecco, abbiamo anche una signora italiana, Chiara Ferragni, una giovane signora che mi è diventata troppo magra, però come mi è diventata magra. È una fashion blogger, giusto? Sì, io la seguo da tanto tempo. È la regina dei fashion blogger e so che non ci crederete, ma gli analisti finanziari si applicano anche sui fashion blogger per vedere quali danno le maggiori ricadute positive in termini di vendite per i marchi o brands del lusso, della moda. La signora Ferragni è in testa nel mondo, ok? Si veste tutti i giorni, splittiamo tutto dalla scarpa all'occhiale, all'orecchino, alla borsa, alla tracolla, eccetera, eccetera. E anche la sua linea di scarpe, la sorella pure alla linea dei costumi da bagno, tutta la famiglia impegnatissima e quindi non facciamo finta di non saperlo, però, perché è così da anni e anni. Però ci sono due aspetti: uno, il fatto che tutte le persone più o meno normali vogliano rendere la vita più fotogenica su Instagram, e poi c'è invece il fatto che in tanti vengono pagati. Ad esempio ci sono star e starlet che vengono pagate a post e magari chi le segue su Instagram non lo sa. Ma no, dai, come fa a non saperlo? Dove vive? In Groenlandia per non saperlo? Certo che vengono pagati, e anche profumatamente. Beh, a volte sono menzionate le marche, no? Certo. Sono sempre menzionate. Se io mi faccio una foto su Instagram con un vestito, ok? Io non metto di chi è questo, a parte che io non è che mi faccio la foto in posa, figura intera, scarpa di pinco, vestito di pallino, ok? Non lo metto, magari lo metto perché mi piace il momento, la situazione, sto festeggiando qualche cosa, sono in un posto bello. Ma quelli che lo fanno dettagliando tutti i nomi dei marchi, e ovviamente prendono soldi, prendono anche una paccata di soldi a seconda chiaramente della loro importanza, di quanti followers, amici, seguaci hanno sui social. Quindi, ma è così da anni e anni questa cosa. Paola, facciamo un po' i cinici. Al di là dell'aspetto che hai sottolineato e che è condivisibile, diciamo etico, di stile, alla moda fa bene o fa male questo fenomeno? Secondo me si sta un po' esagerando, cioè è stato probabilmente utile di più negli anni passati. Poi è chiaro che il mondo della moda si compone di vari segmenti, chiaramente, cioè dal fast fashion al lusso esclusivo. Allora, al lusso esclusivo magari interessa di meno avere questo tipo di testimonial, ma poi è vero fino a un certo punto, perché comunque se prendiamo, non so, gli orologi di lusso svizzeri, li cercano anche loro i testimonial, e comunque no, hanno delle persone che comunque pubblicizzano i loro marchi. Penso, non so, ai piloti di Formula 1, tanto per fare un esempio. Certo, tennisti. Tennisti, no? Quindi sappiamo tutti, li vediamo appena finisce la partita, tac, si mettono il loro orologione e alzano il trofeo a Wimbledon o agli US Open. E, vabbè, questi sono però campioni di livello mondiale. Secondo me io preferirei che mi facessero vedere che stanno cucendo delle belle scarpe a mano, che stanno tagliando con il centimetro giallo intorno al collo. C'è una signora, un signore in camice bianco che sta tagliando il tessuto e accoppiando a mano i quadretti sulla manica. Rispetto a me piacerebbe molto di più backstage di alto livello. Sì, della sartorialità, della manifattura, però il sistema si è un po' preso la mano, diciamo, quindi forse adesso è esagerato, è autoreferenziale e finirà per stufare. Ah, quindi pensi che si arriverà a un punto in cui poi si svolta e si vada da un'altra parte? Non lo so, lo spero, non sono sicura, ma lo spero, perché non sono troppo amante del genere. Anche se i social mi divertono tantissimo, però così diventa too much, eccessivo. Sono d'accordo. Io sono d'accordo con l'analisi di Paola Bottelli. Però io sono anche d'accordo sul fatto che molte persone lo sanno. Quindi un po' di anticorpi stanno arrivando. Sì. E poi sono convinta anche che in generale il successo di Instagram rispetto a Twitter, che in questo periodo non se la passa benissimo, è perché su Instagram è più facile fingere di avere una vita stupenda. Questo è vero. Infatti su Twitter sono molta fatica. Fare invidia agli altri, no? Sì. Ma tu sei sempre in giro. numero uno, che belle cose che fai. Dopo, se lo guardi veramente, non è così, perché magari stai andando in giro nella tua città a fotografare i grattacieli di Milano, se ti lascia il Porta Nuovo, dice: ah, sei sempre in giro. No, sono nella mia città. Soprattutto allo stadio, Paola. Va bene, allo questa... stadio non è capito. Ma ne parliamo un'altra volta. Guarda, dovresti vedere la faccia di Marta, perché teme il capitolo salutate la capolista. Va è bene. Finito ma il invece... nostro blocco, e quindi esatto. Abbiamo una breve pausa e salutiamo Paola Botelli per essere stata con noi. Grazie a voi. Ciao. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. YouTube. Io sono molto contenta di poter festeggiare un compleanno anche in questa puntata di Radio YouTube. Abbiamo festeggiato i nostri nelle scorse puntate, ma anche questa volta. Sono molto molto molto contenta. Allora, intanto do l'appuntamento 16-17 novembre, perché immagino che bisogna anche prenotare i biglietti al cinema, perché sono solo due serate per rivedere al cinema uno dei più... cosa stupenda. È uno dei più bei film della... Ma non ci sono... cinema poi, che è quello che ci manca, secondo sì, me. Sì, andarlo a vedere al cinema. Sedersi amici miei, compie 40 anni. Dai, mostriamo subito un pezzettino alla radio per entrare nell'atmosfera. Non ci pensare, vuoi venire a prendere una boccata d'aria, No. Vuoi che ti portiamo a far pipì? Che si potrebbe fare per svagarti? Ah, lo so. Si va alla stazione. Sì, giusto. Buon idea. Quello che ci vuole. A far che la stazione. Un viaggio, signore. Aio, è già successo. Allora c'è Andrea in regia che non era, non è che non era nato quando, cioè, non era neanche pensato, sì, però, quando, ride però stare e lo sa ridendo memoria. In regia 40 anni di questo capolavoro assoluto diretto da Mario Monicelli, e noi vogliamo festeggiare e ricordare questo compleanno con... Beh, insomma, io, per me, amici miei, è innanzitutto Ugo Tognazzi. Beh, certo. Devo dire, per me innanzitutto Ugo Tognazzi. Per quasi tutti è Ugo Tognazzi. E noi abbiamo in linea, e sono molto contenta di averlo con noi, Ricky Tognazzi. Buonasera, Ricky. Buonasera. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Beh, adesso bene, con amici miei bene, benissimo. Bene. Andiamo a fare tutti una zingarata insieme alla stazione. Ma sai che... A dare un po' di ceffoni. Sai che... Zingarata è una parola che si usa oggi come fosse stata inventata ieri. Pensavi dicessi come se fosse Antonio. Zingarata. Sì, certo, anche per due con lo scappellamento. Ricky, che impressione ti fa rivederlo al cinema? Cioè, i film comici vanno visti in sala, vederli a casa con gli amici o vederli in televisione così, cioè, fruttano poco, perché la risata è contagiosa. Allora quando tu c'hai una platea che ride ad una gag, tu ti diverti il doppio, insomma, che ridere da solo è difficile, insomma. Quindi poi il grande schermo, e poi quando sono le date che me ne... 16-17 16-17 Ricky, che ricordo hai invece tu personale di Amici Miei, magari di quegli anni? I film di mio padre sono un po' come degli album di famiglia, cioè io andavo sono sempre andato a trovarlo sin da quando ero bambino, e Amici Miei è il periodo della mia gioventù, avevo intorno ai 20 anni, e insomma era bello, erano le prime gite, le prime mie gite con la mia macchina, la patente, insomma, e andavo fino a Firenze, e c'era sempre da imparare, poi ero già un appassionato di cinema, poi era un gioco meraviglioso, insomma c'era un clima veramente divertente su quel set. Volevo leggerti un brano che io ho trovato in La Supercazzola, Istruzioni per l'Ugo, un libro che era stato pubblicato qualche anno fa da Mondadori a cura di Roberto Buffagni. Perché sono così questi 5 comunque sciaguratelli, perché fuggono dalle paure di tutti, scappano dalla vecchiaia, dalla morte, dalle malattie, dall'impotenza, da una realtà che si rifiutano di riconoscere. È un film che assume questo significato nello spettatore. Stupendo. Sì. Io penso, quando lo vedi da ragazzo ti sembra una cosa, e poi mano a mano che cresci capisci di più cos'è. Beh, sai, la malinconia di questi vecchi che non capiscono poi, diciamo così, i giovani, non capiscono quest'ansia di voler diventare qualcuno per forza, si rifugiano nel gioco, nello scherzo, nello stare bene insieme, insomma, è un modo, diciamo così, tra virgolette, di ribellarsi, di continuare ad essere ribelli anche ad una certa età. Come tutte le belle commedie, poi si devono appoggiare su qualche cosa anche di amaro, di tragico persino, e penso che la grande forza di questo film è proprio questa commistione tra il tragico e il comico. E com'era Ugo Tognazzi sul set? Perché visto al cinema lui sapeva fare tutto, dalla commedia alla parte drammatica, però sembra avere una forza sempre quasi che tende un po' a oscurare gli altri, no? Se c'è Tognazzi in video c'è Tognazzi. E com'era sul set? Ugo era un protagonista nella vita e sul set. Diciamo, portava la sua esperienza e i suoi vizi e i suoi vezzi e i suoi pregi sul set, e riusciva a mettere se stesso nei suoi personaggi, viceversa poi riportava i suoi personaggi a casa e ci faceva divertire con quello che aveva fatto durante la giornata o che avrebbe dovuto girare il giorno dopo. Ci raccontava le scene che aveva appena girato, che doveva interpretare. Aveva una enorme energia, era, ti ripeto, protagonista non solo sui set ma proprio nella vita. Quando ad una tavolata era difficile metterlo in ombra, a un certo punto scattava la sua verve e riusciva a intrattenerci tutto attraverso i suoi racconti, che spesso erano racconti molto divertenti, un po' spesso quasi sempre autoironici, in cui lui era sempre vittima di qualche situazione paradossale. Abbiamo citato la zingarata, che è un modo di dire, quella è una delle... Lo dicono delle, i ragazzi oggi. Anche i ragazzi che anche cioè. Loro non erano proprio neanche stati pensati. C'è un altro aspetto di questo film che un po' abbiamo già citato, che sembra attuale oggi. Un'analisi, quasi un editoriale politico. Eccolo qua. Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pepaldina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice. Eh? Ecco, lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E prematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Bello. Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego. No, attenzione. Attenzione, Baldati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Allora, ci sono in rete anche delle compilation di supercazzole, yes, che durano minuti. Ormai è immortale, va al di là anche ad amici, va anche al di là di Amici Miei. Tu cosa pensi quando ormai la supercazzola è entrata in qualsiasi tipo di linguaggio? Diciamolo, è stato addirittura definito un discorso di qualche leader politico. Sì, ormai è una supercazzola. Una supercazzola, sì, l'ultima supercazzola di Renzi, piuttosto che di... Sì. Che poi, essendo toscano, diciamo che la supercazzola gli sta bene addosso. ma che sì, infatti la cosa che dicevi prima quando parlavi del tuo fonico che si divertiva a vedere e a sentire, sono riusciti a tramandare questo film e papà e Ugo Tognazzi è ancora vivo nella memoria collettiva in virtù anche e soprattutto di film come Amici Miei, come Il Vizietto, e in Amici Miei la supercazzola è sopravvissuta a tutto, appunto è diventato un modo di dire, è diventato un modo per definire quei discorsi vacui in cui ci si arrampica sugli specchi per tentare di giustificare e raccontare un concetto senza sapere bene dove si va a finire, insomma. Un po' come sto facendo io adesso. No. Anche per due, però ecco lo stesso. No, beh, però il fatto dell'attualità che diceva è notevole. Io l'altro giorno, quando ho letto che sono passati 25 anni, mi sembrava impossibile. Sì, 25 sì, anni dalla morte di Ugo e 40 da amici miei, che è veramente pazzesco. A me sembra veramente ieri quando. E io pure. Che uscì in sordina, perché uscì i primi weekend, andò così e così, non è? Poi piano piano, quando la commedia funziona, non ce l'è per nessuno. E devo dire che prima di chiamarti in diretta, io e Daniele ci dicevamo che probabilmente era l'attore preferito sia dei miei genitori che dei tuoi. Assolutamente. Sì, sì. Una volta l'ho anche incontrato a Madonna di Campiglio, che passeggiava. Ma guarda, no, lontano, invece... me lo ricordo ancora, ero piccolo, davo la mano a mio papà era emozionatissimo, davanti al cinema tra l'altro. Oh, io invece mi ricordo uno dei primi film, ma me lo ricordo come ora, che mi portarono a vedere i miei genitori fu Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. Stupendo. Sì, sì, che... Grande racconto popolare, sempre prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis e sempre diretto da Mario Monicelli, quindi, certo, certo. Quindi fa parte di quel periodo storico straordinario in cui, appunto, oggi come oggi si dice si fanno dei bei film italiani, ecco, in quel periodo c'era proprio il cinema, si faceva il cinema italiano e la commedia l'italiano la faceva da padrone. Anche se devo dire, il mio film del cuore di Ugo Tognazzi è quel segmento di Rogopag, che è il pollo ruspante, è vero, anche perché c'è comunque c'è un esordio importante, che dire. Perché ci sono anch'io. No, è bellissimo, una riflessione sulla pubblicità, sul consumo, una cosa. Quel film, oltre ad essere il mio esordio, diciamo un valore storico eccezionale naturalmente, ma oltre a questo no, la cosa importante di quel film per gli amatori, per chi riesce a trovarlo, Rogopag, che sta per Ro, Rossellini, Go, Godard, Pa, Pasolini, G, Gregoretti, e Gregoretti era l'episodio di papà, dove c'ero anch'io da bambino, e quello di Pasolini è un episodio veramente un piccolo capolavoro che si chiama La Ricotta, quindi insomma quel film, diciamo, ha due momenti straordinari, la mia prima apparizione in cinema e naturalmente l'episodio di Pasolini che in questi giorni si evoca e si ricorda molto di un altro 40, anche lui 40 anni mi pare da quando se n'è andato, 30 sì, 30 sì, 40, 75 anche, 40 va molto, 40, va molto rapido il tempo, veramente. Che bello aver avuto con noi Ugo Tognazzi, grazie mille davvero, grazie per essere stato. Allora 16-17 novembre tutti al cinema, certo. a rivedere amici miei. Non fanno uscire anche amici miei numero 2, numero 3, numero 4. Io prendo già i biglietti, Ricky. Io già li prenoto. Ci vediamo lì. Allora. Buona serata. Grazie. Io vado al Cinema Europa qui a Roma. Ah, straordinario. Grazie, Ricky. A presto. Ciao, un abbraccione forte a tutti. Ciao. Sai che mi viene in mente che io forse la prima volta che sono andato a teatro era Ugo Tognazzi, Molière al Manzoni. Ma guarda, quanti ricordi, quanti ricordi. Allora, adesso dobbiamo... prendiamo un po' di fiato e poi l'ultimo spicchietto del nostro Radio TV. Però che bello, però. Bello. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Radio Tube. Molto bello. Se vi foste per caso sintonizzati solo ora sulle frequenze, vi siete persi Ricky Tognazzi. Abbiamo parlato con lui di Ugo Tognazzi, dei 40 anni di Amici miei. Lui ha fatto un fior di film, podcast radio24.it, anzi poi potete anche iscrivervi al podcast di Radio Tube, così ve lo scaricate in automatico e noi siamo molto contenti. Marta Cagnola e hashtag cancelletto Radio Tube, potete anche scaricare tutto il Sabato del Villaggio se volete. Come dice io ho un amico molto simpatico che si chiama Francesco, è un collega molto simpatico che ogni tanto dice ma perché io mi addormento sempre, cioè lui se lo ascolta la sera ancora per... Ma questo è il massimo del complimento che si può fare. Ma infatti non capisco, però... Ma va benissimo, va benissimo. Che carina questa cosa. Vabbè, sono un po' soporifera. Allora, parliamo di X Factor. Finalmente io sono un grande fan, io e Rocco siamo lì, tifiamo. Rocco è il suo bambino. Sì, votiamo, votiamo. Questa roba si può votare fino a 10 volte. Ma cosa fate? Sceglie tutti i 10 voti Rocco? No, di solito ne fa 3 lui e poi... uno io, e il mio uno è sempre gli Urban Strangers, possono fare qualunque cosa. C'è Rocco per esempio ha votato questa ragazza che è stata eliminata e quindi ci è rimasto male. Beh, credo che è stata eliminata. Io provavo a dire Rocco è stonata, non senti che è proprio un disastro assoluto. Ma diciamolo, io sono stonatissimo, non è obbligatorio cantare. E però non è obbligatorio ammettere a un talent una ragazza che non è esattamente nei canoni per poi eliminarla, perché ma l'hanno mandata finché la portava il suo carisma. Lei però sei un po' arrabbiata. Eccola qua, allora sul palco. No, ma non devi, no, ma perché piangi? Perché tutti mi hanno illusa qui, te lo dico. C'è stata... No, ma non è una questione di illusione, è questione... Senti, no ma con... No. Non ho capito che non puoi fidarti di nessuno, veramente. L'ho Il microfono, Eleonora. Non con lei. Devi solo aver capito dove tu hai eventualmente sbagliato, perché la colpa non è mai degli altri, la colpa è nostra quando accettiamo situazioni che non ci piacciono. Questo è successo a me mille volte. Non credo alla malafede, credo alla buona fede di fare degli errori. E questo, credimi, io ho fatto più errori che cose giuste, per cui so bene. Allora, Mara molto bravissima, carina, molto materna, e effettivamente però io capisco la delusione di questa ragazza che dice mi avete illuso, cioè sapevate che io sarei arrivata, cioè mi avete quasi mandato al macello per essere eliminata subito. Però questi poveri giudici a un certo punto devono anche fare un po' i tecnici, tra l'altro sono bravi, hanno spiegato, e effettivamente rispetto soprattutto a Margherita, magari Margherita è anche meno star, però insomma... Che era l'altra finalista, però obiettivamente... Comunque, e poi a me piace... un altro dei... Dimmi. No, a me piace molto come Fedez fa il giudizio. A me non stava simpatico prima di X Factor, devo dire la verità. Prima di X Factor ero più team Mischilla. Per campanilismo. Perché di Vimercate. Ma è un rapper di Vimercate. Ma senti come suona il rapper di Vimercate. Certo, noi siamo orgogliosi. Certo, ma certo. Però il secondo più famoso di Vimercate dopo di te, tra l'altro. Ma ovviamente ha fatto notizia questa settimana perché ha detto sono stato censurato. Anzi, ha detto Fedez e il suo avvocato hanno dichiarato di essere stati censurati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Un video che ha generato oltre 2 milioni di visualizzazioni in 24 ore, però, quasi 70.000 like, 25.000 condivisioni. L'ha lanciato bene il disco, l'ha lanciato veramente bene il disco. Allora, intanto mostriamo alla radio questo video. La documentazione riguarda la copertina del disco. Comunicazione arriva direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il marchio Fedez populista che abbiamo registrato tempo fa è contrario all'ordine pubblico e al buon costume. All'ordine pubblico perché è ritratto un poliziotto, okay. E al buon costume perché... Perché vomito l'arcobaleno. Perché vomiti l'arcobaleno. Quindi grazie Ministro dello Sviluppo Economico, si vede che hai molto da fare negli uffici del Ministero. Quando non hai futuro tu, figurati tuo figlio, paese delle meraviglie, ma io non mi meraviglio. Fedez, racconta la giusta. Fedez, dai. Meglio come giudice. Cosa c'è? Che spiegaci. Dai, raccontala oggi un po' giusta. La cagnola è pazzesca, sembra bella cagnola. Allora, vorrei citare l'articolo di Rocket, un sito molto, fatto molto bene, che dice, l'autore dice, Fabrizio Betone Martire, ho riguardato il video più volte per capire di cosa stessero parlando Fedez e il suo avvocato, ma l'unica cosa che sono riuscito a capire è stata supercazzola con scappellamento a destra. Sempre lisito. Sempre. Allora, Fedez. Non si sa. Non sono stati censurati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Loro hanno... hanno voluto depositare marchio. Il marchio perché l'immagine della copertina probabilmente volevano depositarla per merchandising. Riutilizzarla, certo. Allora, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha contestato la validità della domanda di marchio avente a oggetto la copertina dell'ultimo disco di Fedez. È successo anche per delle marche macchie di, delle marche di abbigliamento, ad esempio una marca che si voleva chiamare Mafia, che non era proprio, non era carino. Oppure vi ricordate quelle magliette con la A, che però la A voleva dire una, due, un numero, sì, di... esatto. Quindi, insomma, l'ufficio per vecchi marchi ha detto per me è no. Per me è no. Sai qual è la mia reazione? No. Te la mostro alla radio. Lo senti? C'è uno che dorme. Sì, è un telecronista cinese. Qualcuno che sta guardando cinese. Una partita del Milan, immagino. No, guarda, non mi sembra il caso di dirlo proprio dopo l'ultima. Adesso voglio dire. Dici dell'Inter? Milan anche. Del Milan. È un telecronista cinese o giapponese, sì, mi ricordo. Cinese. Guardiamo sul sito. Cinese, che poverino. Sì. Cinese, si è addormentato. Si è addormentato. Chissà quante gliene hanno fatte commentare. No, ma poi il calcio cinese. Ma stava commentando Real Madrid PSG. Paris Saint-Germain. E come ha fatto a addormentarsi? Ma era il fuso orario, ma forse. Probabilmente gliel'hanno fatte commentare 18 di fila alla 19. Io faccio un appello. Tu sai che televisione era? Riassumetelo. Gli fate bere due o tre caffè. Chissà com'è il caffè cinese. Non lo so. Io sì. Vabbè, lo riassumete. Gli fate vedere qualche partita di qualche squadra più divertente, tipo l'Inter. Questo qua. E niente, lo riassumete. Poverino, dai, però mi piace tantissimo perché sente la partita. Immaginiamo i telespettatori. Vabbè, comunque. Vabbè, dai, ci salutiamo con un po' di musica. Dai, un pochino di musica. Un pochino di musica per salutarci. C'è tempo, sì, figurati. Un pochino di musica. Fedez, no. God, our God, has blessed us. Ragazzi, sono momenti intensi in Vaticano. Questo è Papa Francesco, è lui. Ha lanciato il suo primo CD. Ma non è il suo primo, no, ma spieghiamo, perché no, sembra certo, che con tutti gli impegni che ha con la Curia Romana si occupa che... di fare un disco. È stato fatto un disco che riprende le parole delle sue frasi più significative. Sì, si chiama Wake Up. Wake Up, svegliatevi, mi piace, svegliatevi. Non si riferiva al commentatore no, cinese. Sacro profano. Riferiva a quello. Però vabbè, insomma, che bella puntata. Bellissima. È stata, quante belle sabato cose. Sabato prossimo alle 15 Marta Cagnola e tanti colleghi molto bravi di Radio 24, il sabato del villaggio. E poi se proprio non avete niente da fare alle 17 restate qui, Marta si cambia d'abito e facciamo Radio Tube insieme. Mostriamo la radio come siamo fatti noi nel paese attraverso quello che vediamo. E intanto ringraziamo anche Andrea Roccabella che ci ha fatto compagnia in regia e che ha schiacciato una barba tutto. Che invidio. Sì, nelle pause stava cercando di farsi spiegare i segreti della barba così precisa. Vabbè ragazzi, adesso te lo puoi far spiegare perché è finita Radio Buon Tube sabato. Ci ritroviamo sabato prossimo.